Il gastronauta di Davide Paolini. Nella primavera del 1927, la Société Pharmaceutique formò una spedizione per il Centro America per studiare le proprietà mediche di alcuni composti naturali. George fu il volontario più entusiasta della spedizione, ma la sua avventura ebbe una svolta inaspettata. Una sera fu invitato a bere cacao grezzo con un pizzico di peperoncino, la stessa bevanda che gli antichi Maya usavano nelle cerimonie sacre. I Maya credevano che il cacao avesse il potere di liberare desideri nascosti e di svelare il destino. Buona giornata a tutti cari gastronauti. Ebbene, avrete capito che oggi parleremo di cioccolato. Bene, parleremo di cioccolato e faremo un giro in Italia, perché sì, l'Italia ormai è diventato un paese molto importante per la lavorazione del cioccolato. Non abbiamo la materia prima, ma abbiamo dei bravissimi artigiani, abbiamo delle aziende che producono degli ottimi preparati, quindi diciamo che ormai siamo all'avanguardia, anzi molti nostri cioccolatieri addirittura anche nelle guide francesi sono messi ai primissimi posti. Insomma, esiste un cioccolato made in Italy, ormai bisogna dirlo. Quindi noi faremo un viaggio dal nord a sud, da Torino a Modica, tra Gianduiotti, Bicerin, Barbaiada, Cremini, Praline, Torta Barozzi, creme spalmabili, ministeriali, Anduiotti, empanatighi e ricette a base di cioccolato. Bene, cominciamo questo giro da la capitale, una delle capitali appunto del cioccolato, che è Torino. E andiamo da un notissimo cioccolatiere che è Guido Gobino, col quale vorremmo cominciare a parlare della storia un po' del Gianduiotto. Buongiorno Guido. Buongiorno a tutti. Ciao Davide. Ciao. C'è una storia lunga che ci riporta al Gianduiotto. Guarda, è una storia che parte dai primi del 1800, quando c'erano problemi a importare cacao e quindi qualche cioccolatiere astuto ha usato una delle materie prime fondamentali per il Gianduiotto, che è la nocciola del Piemonte. Ha aggiunto a quello che mancava di cacao la nocciola ed è nato questo gusto Gianduia, che è un gusto ormai internazionalmente riconosciuto, è il gusto di Torino. Il Gianduiotto è venuto di conseguenza, è stato data questa forma triangolare dalla tipica lavorazione con le coltelle, come si faceva una volta e si fa ancora adesso, ed è nato questo cioccolatino un po' malfatto che è tagliato praticamente, era tagliato a mano e ancora adesso si fa in questo modo, ecco, in questo modo assolutamente artigianale. Senti, ma è ancora molto richiesto il Gianduiotto come, diciamo, come forma di preparato di cacao? Ma sì, dunque, è richiesto in quanto comunque negli anni è stata un po' rinnovata la ricetta, è stata resa un po' più internazionale, è stata riproposta la ricetta originale, che era quella che non prevedeva il latte, ma era solo nocciola, era solo costituita da nocciola, zucchero di canna e cacao, con una bassissima percentuale di cacao, e questo è diventato un gusto riconosciuto. Si è lavorato appunto sul formato e io devo dire che insomma in parecchi paesi, noi esportiamo anche un pochino nel mondo e vediamo che nell'est, in Giappone, in Corea, in Germania, nel Canada, negli Stati Uniti, questo gusto piace comunque, un gusto che non è cioccolato fondente, non è cioccolato al latte, è un gusto molto, molto originale. Senti, Torino ha anche un'altra gloria oltre al Gianduiotto. Il Gianduiotto è molto conosciuto e più conosciuto, che si chiama Bicerin. E devo dire che poi io racconterò, ma da te voglio sapere il Bicerin torinese, poi io racconterò invece una versione milanese, che è la Barbaiada, che è quasi simile. Ma raccontami un po' il Bicerin, come si ottiene il Bicerin? Il Bicerin è una bevanda, diciamo, estremamente energetica, come erano le bevande dei Maya. Il Bicerin è fatto con un piccolo strato. Bicerin in piemontese vuol dire piccolo bicchiere. Ed è costituito da uno strato di cioccolata calda, uno strato di caffè espresso e un'aggiunta di crema di latte, appena appena montata. Quindi, volendo, diciamo, si mette anche una spolverata di polvere di cacao sopra. Quindi questa è una bomba energetica. È una bomba energetica. Bene, io ti ringrazio, ma nel lasciarti comincio a raccontare, grazie e a presto. Comincio a raccontare della Barba Yada. Bene, la Barba Yada è quasi la stessa ricetta che avete sentito del Bicerin. Addirittura qualcuno, oltre diciamo al latte, oltre al caffè e oltre al cioccolato, mette anche addirittura un torlo d'uovo. Qui siamo veramente all'esagerazione. Comunque è un'invenzione dovuta a Domenico Barbai, è una bellissima storia, che era gestore di un famoso caffè a Milano nell'Ottocento, ma addirittura era l'agente, quindi il procuratore moderno di Rossini e Bellini. E soprattutto si era inventato una cosa straordinaria, il parcheggio per cani delle signore che andavano alla Scala. Pensate un po' che bellissima iniziativa. Quindi devo dire che questa Barba Yada, lui nel suo bar, appunto, nel suo famoso caffè, aveva iniziato appunto a raccontare questa storia, e alla fine è diventato un prodotto che ancora oggi si trova in qualche locale milanese. Ma ora da Torino andiamo a Cherasco, rimaniamo in Piemonte, perché a Cherasco ci sono i famosi baci di Cherasco, e io ne voglio parlare con il titolare della pasticceria Barbero, la storica pasticceria Barbero, che è quella poi che ha inventato il baci di Cherasco. Buongiorno Giancarlo Torta. Buongiorno. Torta, si fanno ancora come un tempo i baci di Cherasco? Assolutamente sì, non abbiamo variato né la ricetta né il sistema per farli. Il bacio di Cherasco, che è una miscela di cioccolato fondente, nocciole delle langhe tostate, vengono ancora fatti a mano e per questo hanno questa forma irregolare. Ecco, devo dire che ci sono 24.000 baci, io direi così alla Celentano, perché ci sono i baci di Allassio, i baci di Alba, i baci di Assisi, i baci di Courmayeur, i baci di Dama, i baci dorati, e potrei ancora continuare. Quindi diciamo che questa forma particolare del bacio è così chiamati, anche se sono diversi da un posto all'altro, è diventata molto nota. Però i baci di Cherasco rimangono sempre quelli tali e quali inventati dal signor Barbero. Esatto, la ricetta appunto è del 1881, e a differenza degli altri baci, che sono tutti due biscotti accoppiati con una ganache in mezzo, il bacio di Cherasco è questo cioccolato con nocciole che si differenzia un po' dagli altri. Senta, ma questo signor Barbero cos'era? Era un come posso dire, un pasticcere, o si era inventato qualche cos'altro? No, è un pasticcere, era partito da Cherasco, era andato a imparare il mestiere del pasticcere a Torino, e quindi ha fatto la sua gavetta, poi è tornato nella sua nativa Cherasco e ha aperto questa pasticceria, in cui appunto poi sono nati i baci di Cherasco. Quindi da tanti anni la gente continua a chiederli, insomma, non si sono stancati di questa ricetta? Fortunatamente no, non si stufano e continuiamo a produrli, noi teniamo duro, continuiamo a farli sempre appunto come vuole la tradizione. Senta, il signor Barbero si è reinventato anche qualche cos'altro, oltre ai baci a base di cioccolato, oppure no? Sì, un altro prodotto tipico appunto del nostro negozio è la Damina, che è una nocciola ricoperta di meringa. Questo era un prodotto che veniva fatto in occasione del carnevale e che adesso noi invece proponiamo tutto l'anno. Bene, quindi prego, voleva dire qualcosa. E poi c'era ancora il pan di cioccolato, che è una mattonella di un pan di Spagna lavorato al cacao con questa granella di cioccolato fondente sopra. Questi sono i tre prodotti più storici della pasticceria Barbero. Quindi nel borgo, che è noto anche per le lumache, il cioccolato trionfa. Grazie a Giancarlo Torta della pasticceria Barbera di Barbero di Cherasco. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Eccoci di nuovo in questo lungo viaggio dolce, mi viene voglia veramente di una cioccolata calda. In questo viaggio dal nord al sud, alla scoperta di questa, diciamo, produzione made in Italy, decisamente made in Italy. Ora andiamo a Bologna, sì, perché anche Bologna ha una gloria, una grande gloria dal punto di vista del cioccolato, ed è il famoso cremino Fiat, che è stato copiatissimo, è una bellissima storia. Ma abbiamo con noi il direttore commerciale, appunto, della cioccolateria Maiani di Bologna, e Alberto Mossotto, e chiediamo a lui come nasce questa storia, perché innanzitutto si chiama Fiat. Buongiorno Mossotto. Buongiorno a voi, grazie di averci chiamato, buongiorno. Ma la storia del Fiat è indubbiamente uno dei casi più belli che registra l'Italia del buon cibo e del buon mangiare. Oltretutto noi l'anno scorso abbiamo compiuto 100 anni di questo prodotto, quindi abbiamo festeggiato un compleanno importante per un prodotto nell'alimentare che poche aziende possono vantare di avere. Quindi la storia nasce nel 1911 a Torino con un bando della Fiat che stava lanciando la Fiat Tipo 4. La Fiat Tipo 4 creò un bando di concorso fra tutte le cioccolaterie presenti al tempo, e stranamente vinse Bologna, perché Torino, come potete immaginare, è un po' la patria del cioccolato. Quindi fu uno scandalo questo. Fu uno scandalo ai tempi, ma ancora adesso risulta essere uno scandalo questa storia. Però l'idea che ebbe Giuseppe Maiani ai tempi fu geniale, perché la Fiat Tipo 4, lui creò questo cremino a 4 strati. Quindi si può considerare un po' una sorta di primo cioccolatino personalizzato della storia. Ecco. Ma mi permetta di dire che è stata la prima forma di sponsorizzazione illuminata, perché esattamente. Il progetto andò talmente bene che la Fiat chiese a Giuseppe Maiani di continuare a distribuire questo prodotto, perché scherzosamente disse: vendete più Fiat voi di noi ai tempi. Certo. Ma senta, ma voi avete ancora le royalties dalla Fiat per questa cosa? Allora, tutti ce lo chiedono, se il cioccolatino è della Fiat o è nostro. Sì. No, nel 1950, e precisamente a febbraio, il 3 febbraio, venne registrato il marchio d'impresa Fiat nelle categorie del dolciario a nome della Maiani, chiaramente. Quindi li avete battuti sul tempo, insomma. Li abbiamo battuti sul tempo, e per assurdo è così, il marchio Fiat, quello storico, eccetera, nel canale dolciario è nostro, e quindi con Fiat abbiamo un ottimo rapporto di ogni foggia, forma e specie. Ancora adesso continua una collaborazione con Fiat, però il marchio è a tutti gli effetti registrato. Senta, siete molto imitati, però diciamo che questo cioccolatino ha avuto un successo, questo cremino ha avuto un successo incredibile, per cui ci sono delle forme di imitazione qua e là, non si possono chiamare cremino Fiat, però insomma delle forme di imitazione ci sono. Ma guardi, è vero quello che dice, ci sono un sacco di imitazioni, poi sostanzialmente il cremino è diventato una tipologia di cioccolatino comune. Certo, quindi ogni azienda di cioccolato ha il suo cremino, fatto in maniere diverse, con ricette diverse. Indubbiamente l'imitazione è forte. Noi abbiamo una gamma ormai di cremino Fiat, tanti conoscono solo il tradizionale, ma abbiamo una gamma importante, si contano più di 20 referenze di gusti, formati, quindi siamo sicuramente imitati, ma questo ci onora, perché quando un'azienda è imitata vuol dire che fa le cose bene. Bene, io la ringrazio, grazie di averci raccontato questa storia che incuriosisce un po' tutti, perché ogni volta che magari si entra in un negozio e vede scritto cremino Fiat, sicuramente si chiede appunto la motivazione, la storia, si chiede perché ancora si chiama Fiat, e ora abbiamo scoperto appunto che era abbinato a un modello, da questo modello è stato creato i 4 strati, ecco qui il segreto. Bene, continuiamo ora da Bologna, andiamo abbastanza vicino, perché andiamo a Forlì, la mia città, e abbiamo con noi un artigiano del cioccolato, perché si chiama proprio così, Gardini l'artigiano del cioccolato. E buongiorno Gardini. Salve, ciao. Buongiorno. Senta Gardini, voi avete anche voi inventato a vostro modo un cioccolato molto particolare, che tra l'altro è stato anche imitato da alcune aziende con cui avete avuto anche delle controversie, però l'originalità, diciamo lo ius prima notis, rimane a voi. Cioccolato al sale, mi racconta come gli è venuta questa idea? Beh, l'idea risale a una quindicina di anni fa, 12-13 anni fa per la precisione, e nacque dal desiderio di fare qualcosa di particolare, un cioccolato da proporre non solo ai consumatori italiani, ma anche ai consumatori al di fuori, diciamo, dei nostri confini, che avesse una sua identità. E lei sa bene meglio di me che l'Emilia Romagna non ha mai avuto una grande tradizione cioccolatiera. No, no, assolutamente, sono d'accordo con lei. E quindi certo, cercavamo qualcosa che potesse connotare fortemente col territorio questi nostri cioccolati che lavoravamo a Forlì. E abbiamo pensato di utilizzare alcuni prodotti, visto che le fave di cacao provengono da aree geografiche comprese fra i tropici, qualcosa che proprio legasse il cioccolato alla nostra terra. E abbiamo cominciato a ragionare sui prodotti tipici dell'Emilia Romagna, in particolare della Romagna, essendo noi a Forlì. E quindi ci troviamo a provare, a fare qualche sperimentazione con questo sale unico, il sale dolce di Cervia, definito così perché proprio è realmente meno amaro per le sue caratteristiche, per la posizione della salina. E cominciamo a fare queste prove e poi divenne una gamma di cioccolati al sale dolce di Cervia che ancora oggi vendiamo in tutta Italia e in tantissimi paesi all'estero. Quindi ha avuto grande successo. Senta, mi tolgo una curiosità, mangiando, io l'ho assaggiato diverse volte il cioccolato al sale, ma mi viene sempre voglia di bere qualcosa. Ecco, secondo lei qual è, diciamo, la bevanda che più si adatta a un cioccolato al sale? Allora, premesso che il cioccolato al sale dolce di Cervia non è semplicissimo da abbinare, a differenza magari di altri cioccolati meno particolari, negli anni però abbiamo individuato alcuni abbinamenti veramente interessanti. Ad esempio, in tutta la gamma dei cioccolati al sale dolce al latte, in genere li abbiniamo con dei vermut rossi. Ah, ecco. E devo dire che sono veramente, veramente interessanti. Quindi... Nella gamma dei cioccolati fondenti è un po' più difficile, però abbiamo fatto alcuni abbinamenti con alcune albane passite qui della zona interessanti, soprattutto nelle versioni, diciamo, più cremose, quindi nei cremini al sale o nei sali alla gianduia, mentre nei cioccolati fondenti al sale abbiamo individuato alcuni passiti interessanti, un teluccio che è un passito di Sangiovese e anche con il reciotto di Allegretti non è male l'abbinamento. Forse il reciotto di Allegrini, probabilmente, Allegrini. Sì, Allegrini, bene. Scusi. Bene, grazie Fabio Gardini col suo cioccolato al sale. Bene, io ogni tanto butterò là delle ricette, sì, perché il, diciamo, cioccolato viene molto usato anche in cucina, specialmente nel Settecento. Nel Settecento c'è una ricetta straordinaria che è stata anche ripresa: tagliatelle al cacao con sugo di maiale e castagne. Provatelo, è veramente un abbinamento interessante. Ma ora continuiamo il nostro giro, dall'Emilia Romagna andiamo in Toscana, scendendo sempre verso il basso, andiamo da Claudio Pistocchi, che è produttore della torta Pistocchi. Buongiorno Claudio. Buongiorno Davide. Claudio, qual è il segreto di questa torta? Perché di torte al cioccolato ce ne sono tante, però diciamo che questa qua vedo che, insomma, ha un grande successo. C'è un segreto particolare? Io penso che il segreto alla fine sia la semplicità, nel senso, siamo riusciti a mettere insieme una dose di una torta che non ha né uovo, né burro, né farina, che per giunto quantomeno incuriosisce, l'assaggi e la capisci. Quindi è molto semplice, cioè si può fare anche a casa questa torta? Beh, tecnicamente sì, è abbastanza semplice, poi farla magari è un pochino più complicato di come mi piace raccontare. Mettiamo insieme fino a 5-6 diversi tipi di fondente di varie origini e provenienza, polvere di cacao e un goccio di crema di latte, perché tecnicamente sarebbero solo 3 ingredienti. Ecco, tutti voi che lavorate il cioccolato avete delle preferenze per il cacao di provenienze varie. Qual è, diciamo, il cacao che tu preferisci? Da quale area geografica, diciamo, punti di più? A quale area geografica? Mi piace molto ciò che proviene dal Pacifico, sarà per un'assonanza e per una preferenza personale. Come sai, ho una moglie asiatica, il cioccolato che in questo momento ci piace di più viene da Papua Nuova Guinea, è un paese preistorico ma che fa grandi fave di cacao. Quindi diciamo il Pacifico. Senti, questa torta si conserva, bisogna conservarla a una certa temperatura, però diciamo che si può conservare. Esatto, la nostra torta si conserva in frigorifero a 2-4 gradi come i latticini, ma a 4 mesi di scadenza. Noi la teniamo in frigo proprio perché vogliamo che il cioccolato e il cacao insieme mantengano il più a lungo possibile tutti i loro aromi primari. Dimmi la verità, visto che tu usi molto il cioccolato e il cacao ovviamente, tu a casa fai qualche piatto, hai inventato qualche piatto o hai, diciamo, preparato qualche piatto, o la moglie, con il cioccolato? Mi piace molto usare il cioccolato in cucina, in pasticceria specialmente, per esempio sentivo parlavi di castagne, mi piace molto fare un budino di castagne con del cioccolato, che viene fuori una specie di crème caramel un pochino più compatto, cotto in forno a bagnomaria, e in questo periodo è sicuramente molto indicato. Bene, visto che siamo in Toscana, vi racconto anche una ricetta, non vi dico gli ingredienti perché sarebbe troppo lungo. La lepre in dolce e forte, che è una ricetta molto utilizzata in Toscana. Ebbene, sapete da dove ha origine? Ha origine dal Pinocchio. Dal Pinocchio perché a un certo punto nella locanda del Gambero Rosso si ingozzano appunto dei piatti più prelibati, e tra questi ce n'è uno della tradizione toscana, che è appunto la lepre condita in una salsa agrodolce e cioccolato. Come vedete, il cioccolato, diciamo, a cuochi fantasiosi e creativi può benissimo essere utilizzato. Bene, credo che il più scontato è il pollo al cioccolato, che ha la sua origine storica in Messico, e in Messico si mangia un grande pollo al cioccolato. Bene, credo di passare la linea alla regia. Saluto Claudio Pistocchi, grazie Claudio, autore appunto grazie della torta Pistocchi, e linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato, un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu. Eccoci di nuovo in questo viaggio straordinario, dolcissimo, a base di cacao e di cioccolato. Siamo partiti di Torino e stiamo arrivando verso il sud, e ora andiamo in Calabria, perché anche la Calabria ha, come posso dire, un suo emblema sul cioccolato, un emblema un po' particolare, perché prima abbiamo parlato di Gianduiotti a Torino con Gobino, Torino appunto la capitale del Gianduiotto. Abbiamo ricostruito la storia di questo famosissimo, diciamo, boccone di cioccolato, che è noto in tutto il mondo, e che anche avete sentito una bellissima storia. Però c'è qualcuno fantasioso, perché l'Italia è ricca di pasticceri fantasiosi, anche se si dice che di solito i pasticceri devono essere come i chimici e come i farmacisti, quindi devono essere molto precisi, però qualche volta appunto si lasciano anche andare. E allora arriviamo appunto in Calabria, arriviamo a Vibo Valentia, e devo dire in una pasticceria che si chiama Mandaradoni. È una pasticceria particolare che, oltre a produrre ovviamente pasticceria diciamo tradizionale, normale, c'ha una chicca molto, molto, molto strana, molto divertente, devo dire. Io la prima volta che l'ho sentita, diciamo, sono rimasto, mi sono messo anche a ridere, perché ho detto: guarda cosa ci si inventa in giro per l'Italia. Ebbene, il Giuseppe Mandaradoni si è inventato gli anduiotti, e allora io vi faccio spiegare da lui stesso cosa sono gli anduiotti. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno Davide, buongiorno. Allora, ci spiega cosa sono gli anduiotti? Sì, questi anduiotti sono dei cioccolatini ripieni sempre di base dolce, ma con il ripieno dell'anduia, l'anduia calabrese, che tutti in tutto il mondo conoscono. Beh, spieghiamola. È una carne di maiale piccante con del peperoncino all'interno, e abbiamo fatto questo abbinamento un po' strano, abbiamo stravolto, diciamo, gli abbinamenti del gusto. Però avete fatto, diciamo, un prodotto territoriale in un certo senso, perché l'anduia è uno dei vostri prodotti di punta, un giacimento gastronomico, e quindi molto importante, perché sicuramente contiene il peperoncino, e quindi molti fanno, come vedremo, il cioccolato al peperoncino, e invece voi avete fatto questa trovata molto, molto particolare. Senta, com'è stata presa all'inizio, diciamo, quando lei ha cominciato a produrre questo mix tra cioccolato e anduia? Come è stato preso? Possiamo dire che è stato uno shock, e quindi anche in diversi concorsi tanti critici ci hanno apprezzato e comunque anche premiato. Pronto? Ah, quindi era andata via un momento la comunicazione, quindi vi hanno premiato. Però diciamo che all'inizio ci sarà stato anche un po', così, come posso dire, di titubanza nell'assaggiarlo, o no? Sì, sì, c'è stato, come ho detto prima, è stato uno shock, no? E allora tutti, chi voleva assaggiarlo, chi no, non mi permetto ad assaggiarlo. però alla fine diciamo ce l'abbiamo fatta, no? Con insistenza, con la nostra testardaggine, perché noi piace andare avanti sulle cose che crediamo, riusciamo a portarle sempre alla fine. Senta, rimanga con noi un secondo, perché abbiamo dall'altra parte del telefono Franco Ruta. Franco Ruta, e andiamo in una delle capitali italiane del cioccolato. Andiamo alla dolceria Buonaiuto a Modica, appunto da Franco Ruta. Franco, come vedi, mi sono ricordato, non ho detto pasticceria ma ho detto dolceria, perché me lo sono segnato in rosso, ricordarsi di dire dolceria. Ecco, allora innanzitutto voglio che tu spieghi ai nostri radioascoltatori perché dolceria e non pasticceria. Beh, in effetti il mestiere originario, antico, era quello del dolciere e dei dolci. Poi per praticità è stato associato a pasticceria e quindi riassorbito. Noi, come ben sai, ultimamente siamo tornati a rimarcare questa differenza, perché quando si parla di dolci secchi, si riferisce al dolciere. E il mestiere, purtroppo, anche nel vocabolario italiano, dolciere, è scomparso. Però la differenza ci sembra ancora opportuna anche da un punto di vista storico, direi. Ecco, siccome abbiamo parlato con il nostro amico di Vibo Valentia di un prodotto un po' particolare che sono gli anduiotti, tra l'altro, come devo dire, geniale questo nome, io con te voglio parlare non tanto della tradizione del cioccolato di Modica, perché diciamo 15 anni fa quando ne parlavamo sembrava di parlare dell'araba fenice, invece oggi molti conoscono. Io voglio parlare con te di un prodotto che secondo me ha l'originalità appunto degli anduiotti, che sono gli impanatighi. Ce lo vuoi spiegare? Sì, certo, intanto preciso, come hai accennato tu, che 15 anni fa nessuno parlava del cioccolato di Modica ma del cioccolato a Modica, e devo dire, senza fare paggeria, che Davide Paolini è stato il primo a crederci. I impanatighi sono dei biscotti a forma di mezzaluna che hanno un composto all'interno di cioccolato e carne. Adesso è il controfiletto di manzo che si amalgama con il cioccolato, mentre nel passato tradizionalmente erano le carni bianche e le carni di selvaggina. E da alcuni racconti, da alcuni aneddoti e materiale che abbiamo raccolto, si è scoperto che in effetti è sicuramente l'intenzione di qualche monsù di famiglia nobile che, per conservare le carni, la selvaggina in eccesso, si inventò questo dolce. Perché dobbiamo precisare, e sappiamo un po' tutti, che nella gastronomia tradizionale, non soltanto siciliana, italiana, messicana, eccetera, l'accoppiata cioccolato e carne nel salato è usuale. La variante come dolce invece esiste solo qua. E, come diceva Sciascia, in effetti è un dolce iperproteico da viaggio. Sciascia diceva che era un dolce tra la contea di Modica, per i viaggi tra la contea di Modica e il Regno di Spagna. Perché diciamo questo? Perché in modo intuitivo si conservavano le carni utilizzando il cioccolato. Sappiamo oggi scientificamente che è proprio il burro di cacao che aumenta la conservabilità delle carni, e queste sono dei risultati che abbiamo ottenuto anche facendo analizzare il prodotto oggi. Bene, io volevo far notare, cari gastronauti, appunto, che il cioccolato non è adatto semplicemente ad essere usato in pasticceria o con, diciamo, le nuance dolci, ma si può utilizzare altrimenti. È per questo che ho messo assieme l'anduia con, diciamo, questo misto di carni degli impanatighi, il che vuol dire che in cucina si può utilizzare, e come, ma si utilizza molto con il cinghiale, si utilizza con la lepre, appunto qui c'è questa proprio analogia, impanatighi fatti di selvaggina e un piatto straordinario chiamato civè in alcune regioni italiane, appunto, specialmente in Piemonte, quello fatto con la lepre, e da altre parti in Toscana, in Maremma, con il cinghiale. Quindi Volevo precisare, ad esempio, nella ricetta tradizionale della caponata siciliana si dice sempre che prima di servirla ancora tiepida, perché tutti sappiamo che la caponata va servita tiepida, non fredda e non calda, grattugiare un pezzo di cioccolato alla cannella o alla vaniglia. E penso che questo... Bene, allora, un riferimento storico. Mi tiri la volata, perché mi viene in mente una cosa che io adoro, che sono le melanzane al cioccolato, che è un famoso dolce appunto nato a Napoli e poi che si è espanso in tutto il sud, se non erro. E noi facciamo un dolce che si chiama licumia, che è a forma di raviolo, il cui composto è esattamente una farcia di melanzane e cioccolato. E il riferimento chiaramente anche a quella ricetta di Amalfi del cioccolato e le melanzane, tipo parmigiana, tanto per intenderci. Sì, mi sembra che fosse fatto all'inizio proprio a Napoli da in una casa principesca o in una casa regale, di lì sia nato e si sia esploso. Io voglio chiedere a Amanda Radoni se lui ha qualche altra peculiarità che usa con il cioccolato. Pronto? Sì, pronto Davide. Sì. Giuseppe, volevo sapere se tu produci qualche altro prodotto particolare con il cioccolato, oppure sei... Sì, noi abbiamo una vasta gamma, come dolci tipici, poi tradizionali anche in questo periodo, sono i fichi ripieni con le noci, fichi tutti che seccati, no? Sì. Fichi secchi ripieni con noci tostate, poi ricoperte di cioccolato. E poi la vasta pralineria che abbiamo, i sorrisi vibonesi, al cocco, diciamo, poi più in alto. Quindi il cioccolato lo usate anche con i fichi, ovviamente. Sì. Franco Ruta, mi sono dimenticato qualcosa della tradizione appunto modicana del cioccolato? Col peperoncino. Ho notato che nel corso della trasmissione avete accennato al cioccolato al peperoncino. Ne abbiamo parlato più volte e il riscontro dal punto di vista del consumatore ancora oggi è molto, molto importante, molto attento a tutte le novità. Bene, io credo che abbiamo finito anche questo collegamento col Sud con appunto Modica e Vibo Valentia, grazie a Franco Ruta e grazie a Giuseppe Mandaradoni. Bene, passo la linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta. Si fa così, rossetto cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Eccoci di nuovo al cioccolato. Ebbene, ci siamo lasciati da Modica con la dolceria Buonaiuto, che ha parlato di cioccolato e peperoncino. Bene, una tradizione che arriva dal Messico, e questo è stato abbastanza dimostrato anche storicamente. Abbiamo parlato di seduzione, appunto, con il cioccolato e il peperoncino si parla di cibo afrodisiaco. Ebbene, c'è anche una grossa ricerca che è stata fatta anni fa da una ricercatrice dell'Università di Oxford, che ha dimostrato che probabilmente il segreto di Casanova era proprio quello di bere tazze di cioccolato e peperoncino. Diciamo che era una tradizione che era stata scoperta già in Messico e poi era stata portata via via nei paesi che producevano cioccolato, e appunto questa, sia leggenda o no, comunque è stata raccontata. Ma rimaniamo sempre nella seduzione, perché si dice appunto che il cioccolato abbia queste doti molto particolari. Tra l'altro se ne parla anche in un libro molto famoso del 1929 del dottor Rompini, La cucina dell'amore. C'è tutta una sezione dedicata al cioccolato, appunto, e alle doti amorose che può provocare questo prodotto. Ma c'è una storia vera in Italia, tra l'altro, che si deve appunto a un amore, oppure alla ricerca di un amore, e da cui è nato un prodotto famoso che si chiama Ministeriale, ed è stato così brevettato da una pasticceria famosa di Napoli che si chiama Scaturchio, famosa anche per tanti altri prodotti. Ebbene, cos'è successo? È successo che uno dei proprietari, Francesco, che era uno appunto dei fratelli proprietari di questa notissima pasticceria, era un tombeur de femme molto, molto attivo, e un giorno si innamora di una diva del Café Chantant, al secolo Maria Nina Laganà Pappacena, in arte Anna Fuguez, e si innamora di questa, appunto, di questa cantante. Lei è molto capricciosa, che si fa desiderare, gli chiede di dedicargli un dolce. E lui cosa fa? Si inventa un medaglione ripieno, uno scodellino in cioccolato fondente, farcito con ganache di ingredienti deperibili come ricotta, cioccolato, nocciola, e resi conservabili da un mélange di liquori. E la ricetta ovviamente è segreta, a tutt'oggi segreta. Ma a un certo punto questo Francesco si rende conto di aver creato un qualcosa di veramente speciale e vuole essere insignito di fornitore della Real Casa. Ma per ottenere questo riconoscimento, appunto per questo ministeriale, le pratiche burocratiche vanno e sono interminabili. Passano da un ufficio all'altro senza avere una risposta. E così lui dice, bah, è un affare ministeriale. E così questo cioccolatino molto particolare è diventato ministeriale e dal 1923 è stato brevettato. Quindi una storia che racchiude appunto la seduzione, l'amore e così le doti del cioccolato. E come dicevo, ci riporta un po' al cioccolato peperoncino e a tante altre leggende. Siano leggende o no, sono molto belle, vale la pena di raccontarle. Ma ora raccontiamo un'altra leggenda, perché ora andiamo a Vignola, in provincia di Modena. Andiamo da Paola Gollini, della pasticceria Gollini. Perché andiamo in questa pasticceria? Perché questa pasticceria ha brevettato una torta molto particolare, che rappresenta anche un periodo storico, rappresenta anche un personaggio molto famoso, ma ora ce la facciamo raccontare da lei, la torta Barozzi. Buongiorno Paola. Buongiorno dottor Paolini. Ci racconta un po' come nasce questa torta, a chi appartiene, il periodo, perché è molto bella questa storia. Niente, innanzitutto grazie della possibilità di raccontare la nostra storia anche in questa trasmissione. Niente, io parlo dalla pasticceria Gollini di Vignola, che attualmente è condotta da me e da mia cugina Franca, che siamo alla quarta generazione. Perché la torta Barozzi, di cui lei ha già parlato, è stata creata, ideata, grazie alla fantasia del nostro bisnonno, nel 1886, il nostro bisnonno Eugenio Gollini, volendo insomma dare proprio un lustro alla propria paese, alla propria famiglia, ha inventato qualcosa di diverso, partendo però dalla tradizione e sperimentando questa torta a base principalmente di cioccolato, appunto cioccolato fondente, ma anche di mandorle, arachidi, uova, con la caratteristica di non avere la farina. E lui l'ha praticamente creata, diciamo così, via via, facendola assaggiare anche ad amici e clienti, finché non ha ottenuto questo impasto particolarissimo che ha voluto dedicare a questo illustre vignolese, che è appunto Jacopo Barozzi, il famoso architetto detto il Vignola. Quindi è un omaggio diciamo di suo bisnonno a questo grande architetto e alla città, in fondo. E anche alla città di Vignola. La torta inizialmente era stata chiamata pasta Barozzi in un primo momento, prima torta nera, poi pasta Barozzi, poi proprio nel 1907, quando ricorreva il quarto anniversario della nascita appunto del celebre architetto, ha voluto dedicarla a lui, sia appunto per ricordare le origini vignolesi di Jacopo Barozzi, sia perché insomma in qualche modo lui aveva creato a suo modo un'architettura di profumi e di sapori, e quindi c'era anche questo. Senta, qual è la chiave del successo di questa torta? Perché tanti anni e se ne parla sempre di questa torta molto particolare. Secondo noi insomma la chiave del successo è sicuramente nel fatto che un dolce artigianale preparato ancora con la stessa cura, con lo stesso amore, con la stessa attenzione di quello di un tempo, e con prodotti di alta qualità come materie prime, ma anche proprio per il fatto che ha mantenuto insomma inalterata il suo equilibrio, la sua armonia di gusto e di sapore nonostante il passare del tempo, tanto che è diventata quasi, noi di questo insomma siamo molto fieri, è diventata quasi una parte integrante del paesaggio vignolese, quasi come la nostra rocca di origine medievale, certo, molto bella, il palazzo Buoncompagni appunto progettato dal Barossi, entro il quale c'è anche la celebre Scala Chiocciola. Bene. Quindi è proprio una parte, insomma, una parte della città, storia. Insomma, della storia della città. Grazie a Paola Gollini, appunto, di Vignola, della pasticceria Gollini. Bene, devo ricordare, forse non è stata ricordata, una bella tazza di cioccolata, e avrei voluto ricordare anche una bellissima poesia di Gozzano, appunto, che ricorda le signore nelle cioccolaterie, quindi anche questo è un bellissimo passaggio, forse molto dolce, molto delicato, anche questi versi che Gozzano ha dedicato appunto alle signore che si leccano le dita nelle pasticcerie dopo aver mangiato cioccolato, quindi un grande, come posso dire, un grande elogio del cioccolato. E devo dire che a questo punto io ho una voglia pazza di andarmi a bere una cioccolata calda, magari in zuppandogli dietro qualche biscottino. Però, visto che siamo in conclusione, vi ricordo che oggi stesso esce la 12ª guida del gastronauta, che è sulle sagre gastronomiche, appunto, è l'ultima della serie, e quindi compratela assolutamente, perché è molto interessante per viaggiare e per andare così a scoprire anche dei giacimenti gastronomici in giro per l'Italia. Io vi do appuntamento domani con Il Riposo del Guerriero alle 11.15, ogni giorno con La Pillola alle 11.05 con ripetizione alle 23.05. Buon weekend al cioccolato da Davide Paolini.